La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:30 primi 39 secondi, qui in diretta dagli studi Radio 24 di Milano e vi saluto e vi ringrazio Oscar Giannino, vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @ radio24.it e vi dice subito di che cosa parliamo oggi, parliamo di una vicenda che descrive quanto il pubblico impiego resta a volte sempre uguale, per così dire. Io avviso la regia che qui la connessione internet è interrotta, quindi io non vedo le cose, però insomma mi fate i segni quando abbiamo gli ospiti. Detto tutto questo, perché dico che la pubblica amministrazione, lo sapete, la riforma Madia è in attesa dei decreti attuativi, sono un po' in ritardo, vedremo i diversi aspetti della riforma che riguardano il salario di merito, i criteri su cui valutare ex ante ex post, non solo i lavoratori ma innanzitutto i dirigenti. Però sapete quante volte nel corso dell'ultimo anno, mentre era all'esame parlamentare la riforma, sono capitate vicende, per esempio quella di Capodanno a Roma del non pochi giorni fa, non 10 giorni fa ma un anno fa, nella quale ci fu l'assenteismo di massa dei vigili urbani, in cui di volta in volta di fronte a queste gravissime mancanze di dipendenti pubblici a noi giornalisti toccava ricordare che nel nostro ordinamento, dalla riforma del procedimento disciplinare del 2009 e comunque dalla riforma generale varata dall'allora ministro Brunetta, risulta assolutamente possibile già oggi, in caso di gravissime mancanze, procedere sia alla sospensione che per giusta causa anche alla risoluzione del rapporto di lavoro, cioè al licenziamento, senza attesa di nel frattempo di eventuali conclusioni del corso della magistratura ordinaria. Ecco, eppure questa cosa nella pubblica amministrazione non capita mai, tant'è che l'ultimo dato ufficiale che conosciamo è di poco più di 20 licenziamenti nel corso del 2014 fino a metà del 2015. E ogni volta che poi queste cose avvengono ci si ritrova sempre allo stesso punto. Le norme esistono, la possibilità c'è, però poi non vengono quasi mai attivate perché si preferisce attendere che magari la giustizia ordinaria faccia il suo corso. Non mancano anche casi di giudici del lavoro che in caso di provvedimenti disciplinari reintegrano i lavoratori quando c'è il licenziamento in attesa della magistratura ordinaria. E questa è la storia appunto oggi. Mentre io vi dico, telefonateci all'800240024 0024 per dirci la vostra su questo, che è uno degli argomenti più triti e ritriti, ohimè, però la storia vale la pena di essere raccontata, perché è la storia di un dipendente pubblico che all'epoca, 7 anni fa, tra l'altro ricopriva anche un incarico di delegato sindacale, che ritiene necessario e opportuno intervenire per segnalare su segnalazione di altri lavoratori, proprio in quanto delegato sindacale, quindi nell'esercizio di una rappresentanza che intendeva anche a tutela però dell'efficienza dell'amministrazione e non solo dei diritti dei lavoratori, di fronte a una situazione di conclamata ai suoi occhi violazione dei doveri essenziali di altri colleghi. Stiamo parlando della sede distaccata del Ministero dello Sviluppo Economico, quello che un tempo si chiamava Ministero dell'Industria, a Bologna, constatato che c'erano colleghi che lamentavano il fatto che altri colleghi timbravano e sparivano e quindi il loro carico di lavoro risultava ovviamente maggiorato, iniquamente maggiorato e sperequato, controllato anche di persona che le cose stavano così, fa un esposto dal quale si origina un'indagine in cui la Guardia di Finanza nella funzione di polizia giudiziaria documenta con le telecamere a distanza il comportamento di diverse decine di questi dipendenti del MISE a Bologna, e la cosa poi fa il suo corso lentamente, perché il fascicolo gira da un pubblico ministero all'altro, da un GIP all'altro, insomma siamo arrivati solo ieri praticamente al giudizio, alla sentenza di primo grado per alcuni di questi lavoratori segnalati dal nostro ospite che ora vi presento. Sono stati condannati sono stati condannati, ma che cosa è avvenuto nel frattempo? A parte che hanno ottenuto la sospensione condizionale della pena, tra un anno saranno prescritti, c'è la non menzione penale, quindi in parole povere dal punto di vista penale gli è andata bene. Ma detto tutto questo, però, nel frattempo verso di loro non sono stati assunti nessun tipo di provvedimento disciplinare, cioè sono rimasti in servizio, anzi sono stati anche promossi con relative bonifiche. E nel frattempo, invece, a chi aveva segnalato questa cosa sono capitate altre cose. Ecco, allora io a questo punto mi fermo perché vorrei presentarvi appunto il nostro ospite e il suo avvocato, cioè chi ha attivato questa vicenda nell'esercizio di quello che ha ritenuto un proprio dovere. E io, viste anche le risultanze della sentenza di primo grado, credo che noi dobbiamo ringraziare persone così nel pubblico impiego. Si chiama Ciro Rinaldi, appunto è un funzionario del Ministero dello Sviluppo nella sede di Bologna. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie a tutti. E insieme a lui c'è anche l'avvocato Mario Marcuz. Non c'è l'avvocato? Dopo, va bene, grazie, perché io sul video non lo vedo, quindi scusatemi cari radioascoltatori, nel frattempo stanno tentando di sistemare, ma non vedo per il momento l'effetto. Allora, Ciro Rinaldi, come mai lei ritenne di dover fare l'esposto? Lo so che sembra una domanda retorica, però ce lo spieghi. No, in modo semplice, lei ha già detto il fatto che mi era stato segnalato questo da due dipendenti che erano costretti a fare il loro lavoro al posto di queste che non c'erano, e c'era anche un'altra, diciamo, ragione secondo me validissima, che è quella che noi dobbiamo dare un servizio pubblico. Nel momento in cui queste persone mancavano, proprio quando c'era la fila degli utenti che dovevano chiedere degli attestati o delle autorizzazioni, questo si allungava e quindi si dava anche un servizio pubblico cattivo. Quindi queste due cose, secondo me, sono etiche, mi hanno portato a segnalarlo all'allora dirigente, che invece di intervenire come sarebbe stato suo Però lei dovere, non ebbe dubbi, insomma, constatata la cosa... Sì, nel momento in cui c'erano due impiegate comunque che erano costrette a fare il lavoro al posto di queste che andavano via. Una addirittura andava regolarmente in palestra, altre andavano a fare spese, scambiavano i cartellini. Io la prima cosa che feci, come era il mio dovere, segnalai la cosa al dirigente, sia come rappresentante sindacale, quindi in difesa di quelle che erano costrette a lavorare, sia come dipendente pubblico che comunque è obbligato a denunciare delle pubbliche, cioè quando viene a conoscenza di qualche reato. Però in quel momento io iniziai dal dirigente. Il dirigente ha fatto orecchie da mercante, anzi sono iniziate delle ripercussioni nei confronti delle due impiegate che avevano segnalato a lei la cosa. Esatto, e nei miei confronti, con da parte di queste che uscivano delle accuse false, che poi chiaramente sono riuscito a deludere, però chiaramente. E dopo, quindi, aver segnalato a livello locale, avendo segnalato a Roma anche la direzione generale, in tutto questo sono passati 2 anni. Nel 2009, eravamo prima nel 2007, il discorso che facevo prima. Il discorso è infatti iniziato 9 anni 2007, fa. Sì. Nel 2009 io ho deciso, a questo punto, visto che le cose stavano peggiorando, di fare un esposto tramite il mio avvocato alla Guardia di Finanza e quindi alla Procura della Repubblica. Quindi lei, prima di fare l'esposto, ha constatato che per 2 anni l'amministrazione non prendeva assolutamente il suo provvedimento, anzi complicava la vita a voi. Sì, e addirittura era praticamente una copertura anche per questi, perché dalle cose che inizialmente cercavano di fare in modo più coperto era diventato abbastanza palese. Cioè, della serie, tu passavi, io o chi aveva segnalato la cosa passava davanti al badge e c'era qualcuno di loro che con aria anche di sfregio timbrava 3-4 cartellini, come dire, tanto non mi potete fare un cavolo, scusi l'espressione, no, certo. Poco il francesismo. Quindi era una situazione che andava, ripeto, oltre a essere un reato, e quindi io non riuscivo a sopportarla, andava a interferire sul lavoro di due dipendenti e andava principalmente a interferire sul servizio che bisogna dare. Noi veniamo pagati per dare un servizio pubblico. Se non lo dai, il contratto col pubblico bisogna che ci sia un'etica. Se tu non la rispetti, in qualche modo bisogna che qualcuno intervenga. Non interveniva l'amministrazione e io ho fatto una denuncia alla Procura della Repubblica. Dopodiché la Guardia di Finanza, incaricata dal PM, ha fatto le sue indagini e rispetto alle 7 persone che avevo denunciato hanno riscontrato invece per 29 persone delle diciamo, delle mancavolezze. E praticamente il PM, dopo aver fatto tutte le sue valutazioni, ha richiesto il rinvio a giudizio per 29 persone. Pronto? Sì, sì, siamo sempre qua che l'ascoltiamo. No, dico silenzio a volte. No, ma è un silenzio per consentirle di progredire nella vicenda. Dopodiché, questo eravamo già nel 2010 a quel punto, perché le indagini sono state fatte a fine del 2009. Nel 2010 vi è stata la richiesta del pubblico ministero e lì è iniziato tutto il balletto di cui vi parlava prima lei, fra i vari GIP, e siamo arrivati ad avere rinvio a giudizio solo nel 2014, in cui il GIP ha deciso che delle 29 richieste fatte dal PM, per 21 li ha scagionati, prosciolti, dicendo che loro avevano fatto, diciamo, delle irregolarità, però siccome le irregolarità, conti alla mano, erano inferiori agli 80 euro, lui riteneva che sotto gli 80 euro non era un fatto penale, ma solo un fatto disciplinare, quindi li ha scagionati, diciamo, e 9 li ha rinviati a giudizio. Questi 20-21 che sono stati scagionati avrebbero dovuto comunque rispondere dal punto di vista disciplinare, ma l'amministrazione sembra che si sia, perché poi c'è molta omertà in questo, sembra che si sia limitata a dei rimproveri scritti, cioè un buffetto sulla guancia di fronte, al di là di quello che dice la legge Brunetta, che è abbastanza chiara. Di questi altri 9, poi il processo è iniziato a gennaio del 2015, e si è concluso, come diceva lei ieri, con la condanna a un anno e due mesi per queste 9 persone. Condanna e con una multa da 800 euro bisognerà poi vedere, accertare in sede civile la somma che dovranno risarcire, esatto, al Ministero. La cosa che non si è risolta assolutamente è quella di dare un servizio pubblico, perché le 29 persone, sia quelle scagionate sia quelle ieri condannate, hanno continuato a essere presenti in ufficio, a fare carriera, a prendere premi, con la copertura del vecchio dirigente, che è stato in servizio fino alla fine del 2014 senza essere accusato di nulla. Io leggo nel quotidiano La Stampa, che richiamava oggi la vicenda, ieri il Fatto Quotidiano, che dei 9 condannati 4 sono diventati capi settore. Sì, esatto. Due sono attualmente capi settore, uno è vice capo settore, e sì, gli altri 2 capi settore sono stati scagionati, a dire il vero, però scagionati con, come le dicevo prima, col fatto che comunque avevano truffato sotto gli 80 euro. La cosa incredibile è che tutte queste persone non hanno subito nessun tipo di limitazione, nonostante quello, come ricordava perfettamente lei, la legge Brunetta, che dice proprio nei primi articoli, dice che nel momento in cui tu attesti falsamente la presenza in ufficio devi essere licenziato. Non hanno applicato questo, neanche sospesi, ma addirittura, perché loro hanno sempre detto si aspetta la sentenza finale. Non è proprio così, perché la sentenza finale, cioè il collegamento fra il procedimento disciplinare e quello penale, vale per i reati che non sono fatti in ufficio. Cioè, le faccio l'esempio: se io faccio una rapina e vengo accusato di aver fatto una rapina, l'ufficio può sospendere il mio mene e può aspettare la fine della sentenza, e se sono chiaramente colpevole mi licenzia. Ma questo avviene negli articoli finali, c'è la correlazione fra disciplinare e penale, ma comunque negli obblighi principali, cioè nei primi articoli, quelli che poi sono stati modificati dalla Brunetta, dice molto chiaramente quello che dicevo prima, cioè nel momento in cui tu attesti falsamente la presenza devi essere almeno sospeso, poi eventualmente se vieni ritenuto innocente viene reintegrato, dovrebbe essere automatico, e questo non è avvenuto, anzi hanno fatto pure carriera, perché il vecchio dirigente, essendo lui poi responsabile della valutazione, ha dato una valutazione maggiore a loro e minore a me. Cioè, le faccio l'esempio, l'ultima valutazione che ho contestato al vecchio dirigente, che è stato in servizio, ripeto, fino al dicembre 2014, è stata perché lui mi dava una valutazione alta nelle cose oggettive, cioè nel lavoro svolto, perché non poteva fare altrimenti, mentre poi mi ha dato una valutazione bassissima nelle voci che riguardano il rapporto con i colleghi e quello che è l'idea che si dà al di fuori all'esterno dell'amministrazione. Cioè, in altre parole, il suo superiore diceva che con la sua azione e il suo esposto, esatto, prima la segnalazione è rimasta senza esito nella catena gerarchica del ministero, e poi al procura, lei aveva in realtà creato un danno pubblico all'amministrazione e soprattutto aveva alterato il suo rapporto con i colleghi. Ho capito bene? Il fatto che io avevo rilasciato anche interviste sul giornale in cui dicevo chiaramente che avevo denunciato delle illegalità dava una brutta impressione dell'amministrazione. Ma il dirigente era, addirittura il dirigente è arrivato anche a denunciarmi, io facevo le ispezioni perché secondo lui avevo dichiarato dei chilometri in più con la macchina di servizio. Mi ha denunciato e intanto mi ha dato un giorno di sospensione. Il PM che ha preso in mano questa denuncia ha fatto tutta l'indagine con la polizia postale e poi ha scritto tranquillamente che dall'indagine risultava che io e la mia collega, che poi ha testimoniato anche, perché avevo denunciato sia me che lei, avevamo fatto il nostro lavoro perfettamente e poi il PM, se vista proprio la situazione, analizzava tutti i documenti che erano, diciamo, pubblici, non ha potuto fare a meno di scrivere, proprio si è sentita in dovere di scrivere, che era evidente che la denuncia fatta dal dirigente fosse figlia dell'altra denuncia, quindi era un atto ritorsivo. Era un atto ritorsivo del dirigente che non solo non aveva fatto il proprio mestiere, ma che non tollerava che lei avesse fatto prima la segnalazione nella catena generale, che poi l'esposto, e quindi si è beccato anche una sospensione. Allora, io dopo un minuto di pausa per l'informazione stradale, la previso già della domanda doppia che le faccio. Primo, al di là dei rapporti complicati, come si vede, con la catena gerarchica del Ministero, che comunque provvedimenti disciplinari in tutti questi anni non ne ha assunti, vorrei sapere i colleghi di lavoro come sono evoluti i suoi rapporti con gli altri colleghi, quelli che lavoravano bene nell'ufficio in cui prestava servizio. E mi interessa anche capire da parte del sindacato di cui era delegato, che fino a questo momento non abbiamo detto, ma dopo la pausa diremo qual è, se questa cosa le ha creato problemi, sostegni, eccetera eccetera. Ci risponde tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:49, primi con Ciro Rinaldi, funzionario del Ministero dello Sviluppo nella sede di Bologna. Vi ha raccontato la storia che parte 9 anni fa, delegato sindacale, viene avvisato da colleghi, altri colleghi timbrano e se ne vanno, lui fa le segnalazioni alla catena gerarchica, non succede assolutamente nulla, dopo 2 anni fa un esposto in procura, indagini della Guardia di Finanza, quindi prove, il PM a quel punto procede, alla fine passano gli anni per rimbalzi e questioni giudiziarie di susseguirsi di chi ha in mano il fascicolo, si arriva a un rinvio giudizio, 21 persone vengono comunque accertate come responsabili di illeciti, ma diciamo per una soglia, per una cifra di sotto della quale a quel punto il PM dice vabbè, non procediamo, ma per altre schede rinvio a giudizio si ottiene condanna in primo grado solo adesso, 1 anno e 2 mesi, si prescriveranno tra non molto. Nel frattempo però l'amministrazione non assume nessun provvedimento disciplinare, anche se il testo, ripeto, della riforma disciplinare del 2009 è esplicito nel fatto che per cose di questo genere c'è il licenziamento per giusta causa, senza attesa di eventuali riscontri o esiti del giudizio penale. E non solo, non vengono assunti provvedimenti di nessun tipo, anzi Ciro Rinaldi, che con noi, si becca anche un provvedimento disciplinare e l'accusa di truffare sui chilometri delle sue ispezioni. Il PM naturalmente penserà anche a rendere giustizia a lui su questo, e l'ha già fatto. Però, detto tutto questo, nel frattempo chi è stato condannato ha fatto carriera, preso bonus e continua a non succedere niente. Allora, io avevo fatto 2 domande a Ciro Rinaldi, resto un secondo lì perché ci sono delle telefonate. Tommaso, che ci chiama dalla provincia di Milano. Tommaso, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Volevo soltanto, allora, io ho fatto il direttore del personale nel settore pubblico. E quando esiste la parola dirigente, quando c'è un dirigente, sì, che dirigente può essere licenziato in qualsiasi momento. Sì. Allora, o usiamo una parola per i dirigenti pubblici, un'altra parola, oppure la parola dirigente è una parola inappropriata. Io dirigente ti chiamo, oggi non vai bene perché hai gli occhi azzurri oppure hai gli occhi verdi, quello che è stabilito nel contratto, ti liquido e tu vai via, perché questi sono i rischi che ha un dirigente. Quindi se qui non si licenziano gli impiegati pubblici, no? Che sono 3 milioni e 2 contro i 2 milioni e 2 degli Stati Uniti, se non si licenziano i dirigenti pubblici, figuriamoci i licenziati di impiegati pubblici. L'impiegato pubblico è tecnicamente il licenziato. No, no, scusi, perdoni, adesso, dopo anni che io scrivo e leggo il testo, e lo ripeto ogni volta c'è una cosa di questo tipo, il testo, ripeto, della riforma emanata nel 2009 è esplicito proprio nelle diverse casistiche che individuano i casi di licenziamento per giusta causa, per gravissima mancanza disciplinare. Non devo dirlo a lei, i provvedimenti disciplinari sono graduati secondo una certa scala, di cui questa è la scala apicale, il più grave, e contemplano precisamente l'uso di artifici attraverso i quali ci si astiene dall'orario di lavoro dopo aver documentato tramite artifici la presenza. E il testo è esplicito: se il dirigente esposto, sovraesposto a coloro che si rendono colpevoli di questo atteggiamento, può instradare la richiesta, che ha poi le modalità del contenzioso pubblico, riformato anch'esso nel 2009, con tempi stretti però, con tempi molto stretti, al termine della quale la misura può essere assunta, esplicitamente c'è scritto, senza dover attendere in alcun modo l'esito di eventuali azioni penali e civili concorrenti che insistono sullo stesso caso. Questo dicono le norme, che poi non vengano attuate è un altro paio di maniche. Giovanni, dalla provincia di Pisa, che pensa? Sì, buonasera. Io sono stato dipendente per 40 anni di una industria privata. Sì. Se facevo 2 minuti di ritardo mi levavano 15 minuti sullo stipendio. Negli anni 80 ho frequentato l'autorizzazione civile di Roma per omologazioni di dispositivi ottici dei veicoli. Sì. E per diversi anni facevo questo lavoro. E lì, fin dagli anni 80, la mattina si bollavano i cartellini a decine, a decine, a decine di persone, le quali arrivavano anziché alle 9, alle 11, alle 10. Lo so, Giovanni, ma anche in ragione di questo negli anni sono state modificate le norme. Il problema è che poi non vengono attuate. Torniamo un secondo da Ciro Rinaldi. Io le ho chiesto, ma con gli altri colleghi, cioè quelli che si comportavano bene, A e B, seconda parte della domanda, con i suoi colleghi nel sindacato, questa vicenda che cosa le ha portato? Che tipo di sostegno, raffreddamenti di rapporto? Allora, per quanto riguarda la prima domanda, noi tengo presente che l'ispettorato territoriale di Emilia Romagna fa 42 impiegati. Ah, quindi il più erano inadempienti, esatto. Furbetti, insomma. Ecco, inizialmente, quando io ho denunciato 7 persone, quando sono arrivate gli atti di garanzia per quei 7, parecchi mi hanno dato solidarietà dicendo che avevo ragione, che effettivamente la cosa non si sopportava più. Quando poi la cosa, chiaramente hanno capito che l'indagine della Guardia di Finanza riguardava anche loro, è iniziata praticamente l'ostracismo, cioè tolte 2 o 3 persone che proprio erano di quelle veramente scevre, quindi che mi hanno continuato a parlare, da quel momento in poi. Ah, quindi per lei è diventata anche una vita di lavoro impossibile, visto che tutti quanti gli voltavano le spalle. E nel sindacato, che diciamolo, è il sindacato, allora, Funzione Pubblica CGL, lei era delegato della Funzione Pubblica CGL inizialmente mi ha sostenuto. Dopo però, quando sono iniziate tutte le ripercussioni dell'amministrazione, ha in qualche modo cercato di parare i colpi, ma non ho avuto la sensazione di avere una grossa tutela. Cioè, no, non è diventato l'eroe da sostenere, neanche per il suo sindacato. Assolutamente no. Il discorso è che, come lei ben sa, la CGL è divisa e fatta di persone, come certo. Tutti gli elementi. Per cui la buona parte della CGL, cioè quella chiaramente più vicina a me, diciamo quello più a sinistra, diciamo usiamo un termine per cercare di capirsi, mi ha sostenuto. La CGL, diciamo, i responsabili maggiori più istituzionale hanno detto ma non mettiamoci figura, a creare problemi a chi no, ha cercato, ecco. Praticamente, tanto è vero che la CGL poteva tranquillamente, è intervenuta quando è stata trasferita la dipendente che aveva testimoniato, che il dirigente l'aveva trasferita all'improvviso a Parma, è intervenuta per denunciare la cosa e diciamo in qualche modo poi si è riuscita a far passare ad un altro ministero questa dipendente, però non ha fatto lo step successivo, che era quello a quel punto di denunciare lei il dirigente, no. Cosa che poteva fare la funzione visto pubblica. Che il dirigente aveva a quel punto messo in atto un chiarissimo comportamento ritorsivo inappropriato e assolutamente illecito. Esatto, e l'ultimo atto, diciamo, abbastanza fastidioso per me è stato che la funzionaria di riferimento in questo momento della CGL, in una riunione, diciamo, tenuta col dirigente, a fronte di una richiesta degli RSU, che erano di altri sindacati, di iniziare un procedimento disciplinare nei miei confronti perché avevo rilasciato avevo lasciato delle dichiarazioni, cose che ovviamente io, guardi, forse parlo dell'amministrazione, degli atti interni non posso dire. Io ringrazio anche l'avvocato Mario Marcus perché l'abbiamo disturbato, abbiamo chiesto tempo e purtroppo non c'è stato tempo. Io, cari ascoltatori, vorrei che a cittadini, a parte che è anche sindacalista, oramai, ma cittadini come Ciro Rinaldi, secondo me, meriterebbero delle menzioni pubbliche agli angoli delle strade. Si è rovinato la vita convinto di dover far rispettare le norme. C'è gente così, tanti nella pubblica amministrazione, ci sono tanti dirigenti che vanificano la loro azione, questo mi fa molto incazzare, e purtroppo lui ha avuto un danno, gli altri un vantaggio. Finché sarà così, qualche monumento per strada ai Ciro Rinaldi farebbe molto bene a questo paese. Continuate.